Io faccio una breve introduzione e sarò molto schematico, ma per dire un po' come centro inquadriamo questa discussione, in che contesto. La premessa è che ribadiamo che siamo dalla parte delle masse dei palestinesi contro il sionismo, contro la complicità nel genocidio e nella pulizia etnica fatta dal capitalismo occidentale, Italia compresa. Complicità italiana che da oltre un ventennio vede alternarsi centrodestra e centrosinistra al governo e nell'appoggio a Israele. Siamo anche per l'abbattimento dello Stato della borghesia israeliana. Se mai ci fosse stata una qualche prospettiva per i due popoli e due Stati, e secondo noi non c'era neanche dagli accordi di Oslo, questa è definitivamente tramontata sotto la gestione che è stata fatta da Israele di questi accordi, sotto la complicità di questa gestione fatta dal capitalismo occidentale e sotto la politica di capitolazione dell'OLP e dell'ANP, che si è trasformata nel corso del tempo in una polizia politica e militare contro i palestinesi. Nella situazione di oggi, nella situazione attuale, abbiamo una pace tra 100.000 virgolette, avallata dall'ONU con la risoluzione 2803, che è una pace contro i palestinesi. Non solo perché siamo a 400 morti dall'inizio della tregua, ma perché è concepita per mettere una pietra tombale su qualunque rivendicazione, aspettativa dei palestinesi alla loro autodeterminazione. E contemporaneamente avalla la pulizia etnica in corso in Cisgiordania e a Gerusalemme. È un erede, diciamo, diretta di quella che è stata la gestione degli aiuti fatta dalla Gaza Humanitarian Foundation, a gestione israeliana e americana, che vorrei ricordare in 5 mesi di funzionamento ha ucciso 1.000 palestinesi che si recavano a cercare aiuti alimentari. Nella bibliografia che abbiamo diffuso prima dell'incontro, che si trova sul blog, se volete c'è un bel documentario di 20 minuti di Airwares, che è un'organizzazione inglese, che ricostruisce tecnicamente che cosa significava questa cosa. Tornando agli argomenti, per noi il compito oggi in Occidente è quello di spingere il proletariato a contrastare e modificare con la mobilitazione la politica del governo e quella dell'opposizione che gli va dietro nei confronti di Israele. Il senso di questa prospettiva qui in Italia è la denuncia della complicità a tutti i livelli e sono mobilitazioni concrete, un segnale specifico, non so, la mobilitazione dei portuali, quello che è stato con la Freedom Flotilla e così via. Questo è il segnale che noi vorremmo che saltasse fuori, che si capisse in generale di come si affronta la questione, qual è il primo compito. Rispetto a questa prospettiva noi abbiamo cercato di fornire con una serie di incontri una serie di elementi di analisi e di comprensione dal 2023 ad oggi, fin dal novembre 2023, quando siamo intervenuti sostenendo la necessità di contrastare fin dall'inizio la pulizia etnica condotta dall'esercito israeliano a Gaza, a prescindere dalla valutazione del 7 ottobre, di quell'assalto che per noi è negativo. È stato negativo per il suo carattere nazionalista e per il suo carattere interclassista, per la scelta degli obiettivi, e che esponeva le masse palestinesi a una ritorsione spaventosa, ritorsione la cui responsabilità politica è tutta e sola di Israele, su questo non ci piove, ma quando si agisce ci si deve chiedere quali saranno le azioni e le ritorsioni dell'avversario, se quanto facciamo avvicina o allontana l'obiettivo finale, i costi da pagare. Ma comunque, generalmente non mi piace citare, però lo voglio ricordare almeno una citazione a braccio, lo scriveva Marx in un testo molto bello che è India, Russia e Cina, una raccolta di testi sulle lotte nei paesi dominati e controllati, e parlando della rivolta dei boxer in Cina, che la barbarie e l'orrore di cui possono essere capaci le masse oppresse dei paesi colonizzati è niente rispetto alla barbarie e l'orrore di cui l'imperialismo le sottopone. E questo vale oggi anche per la Palestina, per quanto è avvenuto il 7 ottobre del 2023. Nella convocazione di questo incontro abbiamo scritto che se ci fossero già in vigore il disegno di legge di Gasparri o quello di Del Rio, questo incontro sarebbe illegale. I disegni di legge che vogliono equiparare la critica del sionismo di Israele all'antisemitismo sono 4. Andate sul sito, c'è una bibliografia anche su questo. Tutti si fondano su una risoluzione della UE che fa questa equiparazione con la risoluzione 15.213 del 2018, che è ispirata dagli atti dell'associazione International Holocaust Remembrance Alliance, che pone questa equiparazione. Organizzazione fondata nel 98 dalla Svezia per impedire un nuovo olocausto, a cui aderiscono una serie di paesi, e che oggi è presieduta da Israele e il cui presidente è Dani Dayan, che è un esponente dei coloni più reazionari e antisemiti che ci sono, quelli che vogliono l'occupazione di tutta la Cisgiordania. Le 4 proposte di legge, perché sono 4, Forza Italia, 2 della Lega e una di Del Rio e altri del PD, sono sicuramente disoneste da un punto di vista concettuale e intellettuale, ma soprattutto sono finalizzate a criminalizzare tutte le proteste contro la complicità col genocidio, a normalizzare la persecuzione tirando in ballo l'antisemitismo, scelta politica che è condivisa da tutta la borghesia al governo e non nei paesi occidentali in questo periodo. Ben inteso, rifiutare l'equiparazione, lotta al sionismo, sionismo è sempre stato un'ideologia reazionaria, all'antisemitismo, richiede però che si sia anche espliciti per eventi come quello recente in Australia di pochi giorni fa, l'attacco alla festa ebraica della Hanukkah. È un attacco, secondo noi, reazionario. È un attacco che una strategia comunista non può prevedere, che si assaltino persone riunite da una fede religiosa a fare una celebrazione religiosa. Diverso l'attacco contro le forze militari, contro l'occupazione, contro quello che ne consegue. E vorrei dire che per quello che vogliamo fare in questa discussione, noi parliamo di una possibile fine di Israele, fine del sionismo, e soprattutto Ilan Pappé nel suo libro che ne sta parlando, effettivamente il sionismo è arrivato alla fine, non è riuscito nel suo intento di dare una soluzione pacifica e non di guerra all'assetto del Medio Oriente. Anzi, esiste e va avanti proseguendo e ampliando la guerra. I tempi per arrivare alla fine di questo progetto sono da discutere. Però si sta muovendo questo, e in Israele c'è una sola cosa nuova che voglio tirare fuori. Rispetto alla fase del 2023, che se vi ricordate c'era un mucchio di mobilitazioni contro la riforma della giustizia, erano mobilitazioni che avevano un cordone sanitario per cui non si parlasse della questione palestinese. Adesso si parla della questione palestinese, si parla che c'è un genocidio in corso, si parla che c'è un'occupazione. Per dire, al di là dei numeri e di tutto, la riunione di questo giorno ci ha scritto dicendo che sono contenti che ci sia Standing Together, che è un'organizzazione palestinese e israeliana che marciano assieme contro il genocidio in questa fase. Noi abbiamo posto nell'introduzione, diciamo, nella pubblicizzazione dell'incontro, 4 domande a cui chiederò a loro di dirci cosa ne pensano. Una, se siamo di fronte a 2 popoli e 2 stati, a una prospettiva di 2 popoli e 2 stati o 2 popoli e 1 stato. Per noi, come ci ho già detto, è un popolo, uno stato non sionista. Se poi il rapporto dei palestinesi, più in generale il proletariato dell'area, debba essere con le masse arabe e medio orientali o con i governi dei paesi arabi e medio orientali. Per noi del centro è chiaro che il rapporto deve essere costruito con le masse proletarie e povere e non con i governi. Non solo con i governi reazionari, tipo quello egiziano, quello turco, eccetera, ma anche con l'Iran. In Iran siamo dalla parte delle masse che si sono sollevate contro il regime degli Ayatollah. In Libano siamo dalla parte dei giovani che sono scesi in piazza 3 anni fa. lo stesso con i giovani iracheni, e non siamo dalla parte di Hezbollah o delle varie milizie che, seppur combattono con l'imperialismo, non sono in una prospettiva di cambiamento sociale. Un altro aspetto, coinvolgendo o no il proletariato e gli oppositori antisionisti israeliani, per noi è fondamentale, va rotto il fronte. In tutti questi anni abbiamo pubblicato materiali di Bezalel o dei Refusnik, che parlava di genocidio, situazione nelle prigioni, necessità di finirla con lo Stato di Israele in quanto tale. Pensiamo che sia necessaria questa cosa, non è, c'è niente di nuovo. Negli anni 70 il Fronte Democratico di Liberazione della Palestina prendeva contatti con organizzazioni di opposizione israeliane. L'ultimo punto, ci vuole una prospettiva nazionalista o una prospettiva anticapitalista e rivoluzionaria nell'area? La questione dell'autodeterminazione palestinese, dell'oppressione nazionale, è una cosa che pesa come un macigno, impedisce uno sviluppo superiore della lotta di classe, ma siamo arrivati a un momento, questo secondo noi, che il peso dell'imperialismo, l'assetto dell'area, l'assetto dei capitalismi che ci sono, la situazione interna di Israele e Israele pone che solo il proletariato può farsi carico dell'autodeterminazione dei palestinesi. Una lotta che va oltre la questione nazionale. Non può esserci due momenti, prima l'autodeterminazione e poi ci sarà qualcos'altro. Il proletariato deve muoversi collegandosi al piano interno israeliano con tutte le difficoltà, non ci nascondiamo che il proletariato israeliano in questo momento è al rimorchio dello Stato israeliano, ma collegandosi anche al proletariato della massa popolare di altri paesi e mettendo in piedi una cosa che possiamo chiamare rivoluzione d'area, tra virgolette 100.000, inizi a aprire un percorso in cui nella crescita di questa lotta si ottenga la fine del sionismo, dello Stato israeliano, il diritto all'autodeterminazione, e la lotta vada oltre. Qui mi fermo e voglio lasciare la parola a chi è intervenuto oggi e, diciamo, se sono d'accordo, ci muoviamo sulle quattro domande. La prima è quella: se siamo di fronte a una prospettiva due popoli e due stati o due popoli e uno stato. Va bene? Si sente? Sì. Ma io credo che dietro questa domanda, più vicino, dietro questa domanda ci sia anche, ponga anche un problema di metodo, no? Nel senso che è una domanda legittima e a cui bisogna dare una risposta, però è anche in qualche modo un accettare un po' il terreno dell'avversario, no? Che è quello dello Stato, no? Io in tutta questa vicenda, ci sono state discussioni, eccetera, ho sentito molte volte diciamo, porre questo problema nei confronti dello Stato di Israele, no? Uno Stato, qualcuno lo definisce uno Stato artificiale, uno Stato colonialista, uno Stato. Ma io credo che il marxismo da questo punto di vista abbia, diciamo, delle acquisizioni che da cui è difficile tornare indietro. Noi siamo contro lo Stato borghese in generale, quindi lo Stato di Israele, lo Stato italiano, lo Stato di Giordania. Poi ogni Stato ha la sua storia, gli Stati della regione sono tutti in qualche modo il frutto del colonialismo, basta guardare la carta geografica, basta guardare i confini. O di iniziative come quella del sionismo, che comunque non sarebbe stato possibile senza l'intervento del colonialismo. Ma non esistono stati legittimi o stati illegittimi, è la loro natura che è una natura di classe, quindi di esercizio del potere, di una classe. Quindi la domanda deve rispondere a un'altra cosa: quali sono le condizioni più favorevoli per cui si può sviluppare un movimento proletario, un movimento operaio in questa regione? Ed è chiaro che da questo punto di vista, astrattamente, è uno Stato, due popoli, uno Stato, nel senso che, come in altre situazioni anche nella storia, la creazione di un unico bacino statale è positiva rispetto allo sviluppo della positiva rispetto allo sviluppo di una classe operaia, che in questo caso sarebbe una classe operaia multietnica, ma ormai le classi operaie sono multietniche in giro per il mondo. Fra l'altro, una cosa che ha dimostrato l'8 ottobre con gli ostaggi è che in Israele c'è una classe operaia multietnica, che non è solo fatta di israeliani di origine ebraica e israeliani palestinesi e immigrati e cosa, ma c'erano dei nepalesi, di cui io per esempio non avevo assolutamente idea che ci fossero dei nepalesi a lavorare, c'erano dei lavoratori asiatici, così come la classe operaia di tutto il Medio Oriente ormai, soprattutto delle petromonarchie, è fatta nella stragrande maggioranza di lavoratori che vengono da altri paesi. Quindi io credo che da questo punto di vista ci sia questo aspetto. L'altro aspetto che da valutare sulla questione dei due stati, che non a caso viene oggi accettata da una serie di stati borghesi, è che in realtà lo spazio per le piccole patrie oggi si è completamente chiuso. Cioè, proviamo a immaginare cosa potrebbe essere uno stato palestinese, a parte diciamo l'obbrobrio di due pezzetti, uno da una parte e uno dall'altra. Ma su quale base produttiva, su quale base economico-sociale potrebbe svilupparsi uno stato del genere? Come si collocherebbe nei rapporti di forza internazionali, nel quadro internazionale? Quale sarebbe il suo rapporto di forza da giocarsi con gli altri paesi? Quale sarebbe la sua struttura di classe? È chiaro che questo tipo di soluzione viene accettata e viene anche in alcuni casi sponsorizzata da alcuni paesi imperialisti, proprio perché è una soluzione che sanno benissimo che potrebbero controllare, così come hanno controllato i simulacri di Stato di Cisgiordania e di Gaza prima dell'8 ottobre, cioè nel senso delle enclave dove i palestinesi stavano rinchiusi all'interno senza nessuna e che sopravvivevano dalla carità pelosa delle monarchie arabe della tolleranza armata di Israele. Quindi credo che questa non possa. Alla fine però non dipende né da noi né dai palestinesi quale sarà la soluzione. Oggi la soluzione di uno Stato unitario mi sembra una soluzione molto teorica. Che ci sia uno Stato unitario comunque, che ci siano due Stati, il problema per noi rimane sempre lo stesso, cioè come organizzare i proletari dei due, i proletari del Medio Oriente e di questi Stati, l'unità del proletariato. Quello è il problema che ci tiriamo dietro non solo nel Medio Oriente ma in tutto il mondo, e che lì comunque è particolarmente difficile e acuto. Ma io condivido molte delle cose dette, però devo dire sinceramente che mi pongo il problema. Prima di tutto dicono la soluzione a due stati è mai esistita, non solo adesso, non dopo Oslo, ma non ha mai potuto esistere. Tutto sommato già dagli anni 30 gli inglesi e poi anche negli anni 40 una pensatrice come Hannah Arendt, che si era sionista ma contro il sionismo coloniale israeliano eccetera, ponevano di più una questione potenzialmente federativa di convivenza tra palestinesi, tra arabi e israeliani, all'interno di uno Stato unico. E questa è una possibilità che tutto sommato si intravede anche tra le righe del libro di Pappé, che tra tutti gli storici israeliani è sempre stato, anche di questi nuovi storici che da decenni combattono contro le menzogne del sionismo ufficiale, è sempre stato forse uno dei più radicali e uno dei più non so come dire, obiettivi. Perché io mi pongo seriamente un problema, e lo pongo anche a voi. Noi parliamo di proletariato. Di quale proletariato parliamo? Del proletariato europeo, occidentale, attualmente inesistente sulla scena politica? Perché il proletariato pesa quando agisce politicamente. Lo diceva anche Marx, il proletariato o lotta o non è, non c'è niente da fare. Se no è semplicemente una classe sociologica, diversamente definibile, possiamo dire la composizione, quanta, però il proletariato è una presenza politica se agisce, soggettivamente ancora prima che oggettivamente. E oggi noi questa soggettività proletaria in Occidente non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo in nessuna forma. Abbiamo delle manifestazioni di dissenso e credo che tutto sommato uno dei motivi per cui oggi a Torino stanno succedendo, insomma, gli scontri che succedono per la chiusura del centro sociale a Scatasuna non derivino dal fatto che a Scatasuna è andato a danneggiare in maniera assolutamente superficiale la sede della Stampa, quanto piuttosto perché a Scatasuna è stato alla testa di tutte le grandi proteste studentesche e giovanili sulla questione palestinese dell'ultimo anno. Difatti, se uno va a indagare i nomi che la questura vuol mettere sotto torchio e che ha proposto sulle pagine di giornalacci come la Stampa e la Repubblica, sono per esempio uno di questi, quello di Sara Munari, una ragazza che è sempre stata in testa alle lotte, riconoscibile, e sempre ha avuto, è stata già ai domiciliari più volte, eccetera. E a Scatasuna deve essere formalmente chiuso, isolato, proprio perché ha una funzione, ha avuto in quest'anno una funzione unificante. Adesso non voglio entrare nel dettaglio se ha appoggiato o non ha appoggiato delle forze politiche palestinesi, però ha mobilitato le manifestazioni da 100.000 persone a Torino o 300.000 a Roma o in altre città. Erano manifestazioni che, scusatemi, ma non si vedevano dal 68. Poi possiamo dire sono intervenuti i media, è intervenuto l'umanitarismo becero della borghesia che ama sempre piangere sui poveretti quando sono poveretti e quando si ribellano armi alle mani diventano delinquenti e terroristi. Ma comunque queste cose ci sono state. Però non è partita dal proletariato questa iniziativa. Magari questi giovani hanno trascinato dietro di sé pezzi di proletariato e lumpen proletariato urbano immigrato, i cosiddetti Maranza, altri eccetera, ma non abbiamo avuto un'iniziativa proletaria. In Palestina mi chiedo di quale proletariato stiamo parlando. Lo capisco, ci sono i proletari nepalesi, qualcuno poveretto anche finito rapito, sì, no? Sì, dopo il 7 ottobre, cos'erano, thailandesi, e così questo genere, no? Quindi c'è quel proletariato lì, c'è un proletariato israeliano, ma che, stiamo attenti, il proletariato israeliano ha condizioni di vita probabilmente ben diverse da quello del proletariato arabo, e mi chiedo se esiste ancora un proletariato arabo in Palestina, perché a Gaza dove sono gli operai o i lavoratori che possono ancora uscire da Gaza? Perché gran parte di quello che noi chiamiamo proletariato arabo e palestinese era quello che usciva da Cisgiordania e andava a lavorare in Israele, quello che usciva da Gaza andava a lavorare in Israele. Mi sembra che da mesi questa cosa qui, con la chiusura del valico di Allenby, che era importante, ma dopo gli attentati l'hanno chiuso, con la chiusura di tutta Gaza, lì più nessuno esce. Allora, ho detto prima, il proletariato non è una classe sociologica, ma qui stiamo parlando di Bantustan in cui l'esigenza primaria è quella di sopravvivere. Allora, sull'organizzazione di questa sopravvivenza entra anche la lotta politica, è chiaro, entra anche la lotta militare, entra anche la ricerca di un'alleanza laddove è possibile con quella frangia di ebrei che si oppongono al sionismo colonialista e a tutti i suoi errori. Possono essere i soldati che si rifiutano, abbiamo visto proprio nell'ultimo periodo centinaia di riservisti hanno rifiutato di essere richiamati. Abbiamo visto anche l'avvocata delle forze armate essere messa in galera perché aveva denunciato gli abusi perpetrati su questi. Sono indici di cose di un malessere generale che è quello che possiamo individuare nella crisi del sionismo, che va ben al di là della manifestazione legalitaria su aspetti giudiziari della personalità di Netanyahu, in un contesto in cui da tutte le parti si è sempre cercato di mantenere diviso il proletariato. Hannah Arendt già nel 48-49 segnalava che proprio ad Haifa, che era uno dei punti di maggior contatto tra proletari ebrei ed arabi, per le raffinerie e tutte le cose, l'Irgun cosa fece? Tirò delle bombe a mano sugli operai arabi fuori di una raffineria. E da quella cosa lì, molta solidarietà, soprattutto da parte araba nei confronti dell'altro proletariato, è un fatto materiale, cioè noi dobbiamo stare attenti a non anteporre sempre fattori ideali, ideologici, interpretativi, teorici, che sono importanti per noi, ma bisogna vedere come ricadono poi in queste famose masse di cui spesso parliamo. Come si muovono queste masse, perché? Ecco, oggi probabilmente io sono pienamente d'accordo, ho anche scritto, quindi me ne assumo la responsabilità, credo che l'unica strada possibile sia quella di uno Stato unico, per adesso. Che questo evento, qualora avvenisse, sarebbe destinato a dare uno scossone a tutto il Medio Oriente. E quando noi vediamo, scusatemi, magari vado fuori, quando noi vediamo, per esempio, questi paesi arabi che intendono finanziare non la ricostruzione di Gaza, l'Arabia Saudita, gli Emirati, eccetera, e che offrono fior di quattrini agli Stati Uniti all'investimento, però questi paesi arabi vogliono anche delle garanzie formali, insomma la strage un po' deve smettere, il controllo israeliano sui loro investimenti non deve esserci, e questo perché da un lato affarismo puro e semplice, dall'altra politica interna. Non possono scoprire alcuni paesi le proprie carte, che noi sappiamo essere quelle, cioè noi continuiamo a condannare Israele, ma nel massacro dei palestinesi ci stanno gli arabi, ci sta l'Egitto, ci stanno tutti, su questo non c'è dubbio, no? Però dei problemi con le masse al loro interno questi li hanno. Quindi lì può esserci una soggettività proletaria di masse, di classi più o meno diseredate che premono sui loro governi e si vedrà cosa capita. Però noi siamo di fronte a questa situazione, cioè teniamo conto, noi siamo occidentali, siamo qui, ci stiamo parlando, possiamo dirci delle cose, il nostro proletariato non si muove, non si è mosso, a parte i portuali di Genova, un po' nella logistica, ma spesso nella logistica gran parte dei dipendenti non sono nemmeno italiani, no? Quindi lo sappiamo benissimo. Quindi una cosa di questo genere è per adesso affidata a ciò che avviene in loco, e ciò che avviene in loco è contornato di contraddizioni gigantesche, no? Di cui noi, se vogliamo capire anche un po' cosa dire, dobbiamo tenere assolutamente conto, non possiamo far finta che non ci siano. Ripeto, per primo ho detto, credo che occorra un rivolgimento in Israele in cui siano gli ebrei a farsi carico anche della questione palestinese, ma se ciò avvenisse, è sicuramente non è un passaggio indolore, votiamo, cade Netanyahu e che bello, no, è una guerra civile interna, di cui abbiamo dei prodromi, eh? La separatezza tra il governo, le forze armate, i servizi tipo il Mossad che avverte quelli di Hamas perché non li possano bombardare a Doha, l'esercito che comunque continua le operazioni ma critica fortemente Netanyahu, se non sono crisi interna grave di uno Stato, queste manifestazioni qui non so cosa siano. Poi bisogna vedere se la parte ebraica corrispondente è disposta e decisa ad agire e se i palestinesi cercheranno una via diversa nei confronti degli ebrei, non solo quello dello sconto, del massacro, eccetera. Diciamo che un po' avete già risposto, però l'altra domanda era se si va preso un rapporto con le masse arabe e medio orientali o con i governi dei paesi arabi e medio orientali. Volevo, prima di rispondere a questa domanda, volevo però fare una considerazione sulla questione del proletariato che non si è mosso. I livelli di coscienza, è vero che cioè la classe per sé, la classe in sé, la classe per sé, però i livelli di coscienza sono determinati da circostanze storiche, quelli che non è un fatto, e l'ideologia che domina, l'ideologia dominante è quella della classe dominante, non è un fatto che tocca a noi, tocca all'Europa, tocca a Israele, eccetera, è un fatto storico generale. Cioè, quando è scoppiata la prima guerra mondiale c'erano paesi più o meno arretrati, c'era la Germania dove c'era un grande movimento operaio, eppure non c'è stata un'opposizione alla guerra, benché la guerra toccasse direttamente, perché era gente che doveva andare in guerra. Quindi prima che una condizione materiale riesca a diciamo avere sopravvento rispetto alla formazione che si è avuta, rispetto alla società in cui si vive, eccetera, ci vogliono avvenimenti traumatici. Quelli che nel 17 hanno fatto la rivoluzione in Russia, nel 14 non si erano mossi per niente, anzi erano andati a milioni a combattere per lo zar, e quindi ci vogliono avvenimenti traumatici, questo da tutte le parti, anche in Israele, anche dove questi avvenimenti drammatici in parte ci sono stati, e qualche effetto spero che comincino a avere. Poi è vero che non si può parlare, cioè noi parliamo molte volte, si usa questo termine in modo estremamente astratto, proletariato eccetera, poi in ogni situazione ogni paese ha una composizione di classe diversa, ha storie diverse. Se dovessimo estremizzare il concetto, si potrebbe dire che il proletariato sono gente diversa in tutti, fuori che in una condizione sociale. Poi per il resto sono tutti diversi per generazione, per ideologie che hanno in testa, per la storia che hanno vissuto, eccetera. Quindi diciamo tutto questo rema nel senso opposto a quello di avere una coscienza. Per quanto riguarda invece la questione delle borghesie arabe nei paesi medio orientali, questo è un altro degli elementi che penso che in generale sia stato molto sottovalutato nella valutazione di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Perché se c'è questa tragedia, la responsabilità è anche quella delle borghesie dei paesi arabi, che hanno usato la questione palestinese per i loro interessi, ma non per un giorno o un episodio, l'hanno usata per tutta la storia. Cioè l'intreccio della questione palestinese con le esigenze dei paesi arabi, compreso quello che è successo l'8 dei paesi in generale del Medio Oriente, anche quelli non arabi come l'Iran, è comunque il frutto di una serie di posizionamenti, di utilizzi di uno dei movimenti di liberazione che, se vogliamo dire le cose come stanno, è stato il meno autonomo della storia recente, perché il movimento, quelli che sono un po' più vecchi tra di noi si ricordano cos'era anche il movimento di liberazione della Palestina negli anni 70, in cui c'era la frazione filo siriana, quell'altra filo egiziana, e con contrasti, e un atteggiamento dei paesi arabi che era quello della carota e del bastone, molto spesso, più spesso più il bastone che la carota, tant'è che sono stati nella classifica di chi aveva ammazzato più palestinesi per un certo periodo, sono stati anche largamente in testa, perché Settembre Nero e episodi del genere non sono stati fatti da Israele. Quindi in questa situazione, sia nel passato sia nell'immediato, c'è lo zampino delle borghesie arabe che si preparano a utilizzare la situazione per stabilizzarla a loro vantaggio. Poi che il vantaggio degli uni non sia il vantaggio degli altri, quindi ci siano delle tensioni, è assolutamente normale. Ma è chiaro che tutto questo, così come all'Iran poteva essere nel suo interesse sabotare gli accordi di Abramo, ci sono l'Arabia Saudita, che fra l'altro ha fatto in tutta questa situazione dei grossi passi in avanti, perché ha fatto il patto col Pakistan per avere la protezione atomica, e con gli Stati Uniti, che evidentemente hanno lasciato fare. questa situazione qua si sta, cioè ognuno sta giocando, sta giocando le sue carte, di cui ancora una volta sono vittima i palestinesi, l'ultima cosa, tornando un po' alla questione del proletariato, è vero una cosa, che in determinate situazioni si potrebbe parlare di proletariato potenziale, nel senso che in una situazione come Gaza, dove anche prima la sopravvivenza delle persone era legata a quello che veniva portato da fuori, ma no, e a una produzione che era una produzione essenzialmente di consumo, diciamo, c'era un proletariato in potenza. Una parte lavorava con Israele, cioè lavorava nei territori israeliani, e non lo può più fare. Recentemente era uscito anche un articolo, mi sembra sul Corriere della Sera, se non vado errato, dove descriveva il fatto che, nonostante il blocco, la chiusura dei valichi, l'esercito israeliano, complici gli imprenditori israeliani che avevano bisogno di manodopera edile, e quelli arabi e quelli palestinesi, faceva passare, con qualche morto ovviamente, perché c'era sempre il soldato che poi sparava, c'era un tacito accordo per far passare dei lavoratori dentro Israele, perché ne hanno bisogno. Questo è indicativo anche di un intreccio, diciamo, economico che c'è nella regione, diciamo, può continuare a essere, cioè, difficilmente Israele potrà farne a meno della manodopera, diciamo, anche in un momento che finisce la guerra, della manodopera che viene dai territori occupati o che viene da Gaza. Quindi creerà comunque le basi per una politica di possibile unificazione del proletariato. Questo discorso è anche vero che uno dei dati della crisi di Israele di adesso è proprio le difficoltà economiche, che comunque si manifestano per due motivi legati proprio alla composizione di chi lavora in Israele. Una parte, i lavoratori specializzati, eccetera, ebrei, sono stati richiamati e ne mancano migliaia sui posti di lavoro, no? E quindi questa è una carenza. Molti lavoratori palestinesi comunque mancano, quindi voglio dire, non è così facile mandare avanti l'azienda e le imprese agricole industriali che siano in questa situazione. Difatti compaiono spesso articoli, io non sono un economicista per cui dice allora va male, succede questo, però sicuramente ha delle difficoltà non secondarie Israele da questo punto di vista nel gestire la propria economia. Sulle responsabilità dei paesi arabi, le avevo già detto prima, condivido pienamente, dico è evidente che i paesi arabi hanno giocato moltissimo sulla divisione. Torno ad Anna Arendt, ai suoi scritti a ridosso della NAPCA, in cui lei diceva, guardate che questa NAPCA, questa evacuazione dei palestinesi è stata talmente veloce che è molto probabile che i paesi arabi l'abbiano favorita proprio per poi rivendicare successivamente, no, nei confronti di Israele, territori e tutte le altre cose. Non so se vale come interpretazione o meno, certo che questa grande separazione arabo-ebreo è stata divisiva in maniera omicida fino ai nostri giorni, pur riconoscendo che anche all'interno delle forze ebraiche, dell'ebraismo, chiamiamolo così, ci sono state voci importanti. Io ricordo sempre queste cose, bisogna sempre segnalarle, perché invece di fare queste leggi che equiparano antisemitismo antisionismo e antisemitismo, poi nessuno si ricorda le voci importanti che vanno da Albert Einstein a Anna Arendt, a decine di altre che si sono espresse e ancora si esprimono adesso. Per esempio, a me quello che ha sempre colpito era Marek Edelman era comandante militare della resistenza del ghetto di Varsavia, il ghetto che ha resistito assistito ai tedeschi per quasi un mese, con 250, inizialmente erano 500, poco prima dell'insurrezione i tedeschi hanno fatto una retata, ne hanno portati via 250, 250 ragazzi armati di molotov, pistole e armi strappate ai tedeschi hanno resistito per quasi un mese a migliaia di soldati tedeschi, senza ricevere nessun aiuto dall'esterno, tantemeno dei partigiani comunisti polacchi, punto. Tanto per mettere i puntini sugli AI, no? Sulle I. E Marek Edelman, che è stato il dirigente di questa rivolta, era il comandante in seconda, ma il comandante in prima credo sia stato ucciso, si è sempre rifiutato di andare in Israele, no? E diceva appunto Marek Edelman: abbiamo combattuto per la nostra vita, ci muoveva una determinazione disperata, ma le nostre armi non sono mai state usate contro civili inermi. Il riferimento era a ciò che invece Israele faceva nei confronti dei palestinesi, fa tuttora. Abbiamo lottato per la sopravvivenza della comunità ebraica, non per un territorio, né per un'identità nazionale. Per me non esistono un popolo eletto né una terra promessa. È uno degli eroi dell'ebraismo nella lotta contro il nazismo, se vogliamo parlare di chi ha combattuto l'antisemitismo. E tutte queste persone spesso sarebbero le prime, ma ce l'ha detto anche Primo Levi in altri termini a rispetto delle operazioni in Libano di Israele. Lui stesso voleva denunciare il governo, quindi voglio dire, c'era una coscienza antisionista coloniale, no? Provenendo, che si è manifestata e si manifesta tuttora, con cui occorrerebbe, appunto ci diceva prima Francesco, sviluppare dei contatti anche all'interno della Palestina, che ci saranno eccetera, ma noi dobbiamo ricordare queste cose qui e ricordarlo a quei fessi che ci propongono leggi sull'antisemitismo. Dice: ma come mai non parlate mai di Marek Edelman? Perché non parlate mai di Primo Levi? Perché non parlate mai di Hannah Arendt? Perché per loro erano antisemiti. Perché per loro erano antisemiti. Avevano la ricetta, le creò che odia se stesso. Sì. Cioè, voglio dire, però questa cosa qui è molto importante, ecco, se noi dobbiamo ricordare delle cose rispetto a Israele, queste. Cosa che invece non più che grande odio da parte dei governi arabi nei confronti degli ebrei, quello è vero. No, non abbiamo mai registrato, ma quell'odio lì non funziona. Io ormai lo dico spesso, no? Cioè, l'ho detto anche nell'articolo che avete citato, no? Il dio della vendetta, quello dei sionisti, non può essere di chi lotterà per la propria liberazione. Non si fa una lotta a liberazione per vendicarsi, anche se è comprensibile. Cioè, se la situazione a Gaza resta quella, io mi chiedo, tra 10 anni, tanti dei ragazzini che sono vivi e adesso hanno 7, 8, 6 anni, cosa saranno disposti a fare nei confronti di qualunque ebreo che incontrano per strada? Perché questo è uno di quei fatti su cui noi possiamo dire non siamo d'accordo, sul 7 ottobre non siamo d'accordo, ma proprio in base a quello che dicevi anche tu sul proletariato, quello che succede, se adesso nei prossimi 10 anni succederanno movimenti di quelli che noi auspichiamo, se no tra 10 anni Israele non deve aspettarsi il 7 ottobre, deve aspettarsi il 14 ottobre, cioè il doppio, se non il triplo. Perché poi tanto questa corsa disperata a distruggere i palestinesi, questa ipotesi genocidaria israeliana, non ha mai vinto fin dall'inizio. Io ricordo solo una cosa per capire, no? Perché quando nell'inverno tra il 2008 e il 2009 c'è stata l'operazione Piombo Fuso a Gaza, che altrettanto aveva fatto distruzioni inenarrabili, non in questo modo sicuramente, io vivevo ancora in Toscana, avevo modo di frequentare per mille vie dei tunisini. Alcuni lavoravano negli alberghi, altri lavoravano sui pescherecci, che però guardavano Al Jazeera. E questi ragazzi, giovani, mi dicevano: Sandro, ma noi non abbiamo mai fatto politica, non siamo terroristi, ma a vedere queste cose ci viene voglia di andare subito a combattere. Guarda caso la Tunisia è uno dei paesi che in questo periodo ha visto le manifestazioni maggiori a favore dei palestinesi, anche con tutte le leggi messe in atto dal governo per impedirle, eccetera. Ecco, i fili delle trasmissioni, dei comportamenti, delle decisioni politiche, delle soggettività sono molte. Bisogna riconoscere in queste quali sono le cose che forse hanno un indirizzo positivo e altri invece porteranno soltanto un bagno di sangue. Le borghesie arabe, se restano a cavallo, il bagno di sangue di palestinesi e di ebrei lo vorranno sempre, pur di rimanere a galla, cercando oggi di superare l'investimento negli Stati Uniti, renderlo superiore a quello che può avere per esempio la lobby ebraica per il governo americano, ma questo è un altro paio di maniche. La terza punto di discussione è quello del coinvolgimento o meno del proletariato e degli oppositori antisionisti israeliani in questa prospettiva. Beh, questa è una domanda a cui in pratica sia io che il compagno abbiamo già risposto, nel senso che io credo che da questo punto di vista non ci sia nessuna possibilità di... non ci sia nessuna possibilità di una lotta in quella regione che non coinvolga anche, che non parta anche dall'interno di Israele. Non c'è da un punto di vista militare, non c'è da qualsiasi punto di vista. Cioè, è chiaro che non oggi questi episodi di rifiuto di combattere, di arruolarsi, o il livello di coscienza anche di quelli che sono scesi in piazza contro il governo Netanyahu, ma sono partiti dalla questione degli ostaggi, non sono partiti dalla questione palestinese, è ancora molto arretrato e concerne delle minoranze. Però è anche vero che senza una rottura dall'interno dello Stato di Israele non credo che sia possibile, non credo che siano altre vie d'uscita. Paradossalmente, anche un po' per considerare l'altra domanda che era stata fatta, cioè è finita Israele con questa guerra? Beh, non, da un punto di vista dello Stato, della potenza militare, eccetera, uno dovrebbe dire di no, perché la potenza militare è cresciuta, perché Israele ha, se non distrutto, fortemente indebolito i suoi competitori nella regione, perché ha le spalle stracoperte dall'Europa, dagli Stati Uniti, con Cina e Russia che comunque come minimo, ma neanche come minimo, anche la Russia ha un peso nel coprire il regime Netanyahu, e la Cina fa affari con loro come con chiunque altro. Quindi da questo punto di vista non è finita. È finito però, cioè è un punto di non ritorno, e io credo sia all'esterno che all'interno. Cioè non ho mai visto queste forme di dissenso anche nelle comunità ebraiche, che pure hanno avuto un'involuzione, ne parlavamo prima che cominciasse la riunione, che pure in questi decenni hanno avuto una forte involuzione, diciamo così, filo sistema, filo capitalista, eccetera. Non ho mai visto tanto malessere, tante lacerazioni all'interno delle comunità ebraiche come con questa cosa. Cioè, normalmente, distinguo meno, ma comunque Israele rimaneva sempre diciamo il riferimento. Oggi questo lo vedo molto meno. Libri come quello della FOA, no, per dire, o anche forme di dissenso esplicite, come si sono state anche da personaggi che si richiamano al sionismo, eccetera. Secondo me sono sintomo di un momento, di un punto di non ritorno, sia in negativo che in positivo. In negativo perché non dobbiamo nasconderci una cosa, lo diceva prima lui, una guerra di questo genere, una guerra che massacra i civili, eccetera, lascerà degli strascichi enormi, enormi come dimensione, enormi anche come durata nel tempo, da tutte e due le parti, perché lì c'è una generazione, in Israele c'è una generazione che è stata resa complice di un massacro, e non c'è niente di più forte che il legame della complicità, cioè per rompere con la complicità bisogna distruggere anche una parte della propria vita, e quindi questi ragazzi che sono stati mobilitati, che sono stati mandati lì a combattere, eccetera, saranno segnati anche loro, diciamo, dalla complicità in questo fatto per tutta la vita. Dall'altra parte c'è la distruzione che abbiamo visto, è inutile starci a ragionare. Quindi chi è sopravvissuto a questo, chi ha visto tutta la famiglia sterminata, eccetera, è chiaro che sarà comunque segnerà il futuro di quella zona. Quindi questo è l'ascito negativo. Il sionismo, così come è stato, con tutte le sue ambiguità, perché è stato un fenomeno diciamo, che ha avuto così sfaccettature diverse, diciamo, nella sua storia, è stato anche ha cavalcato anche un fenomeno reale, cioè alla fine della Seconda Guerra Mondiale in tutta Europa ci sono stati decine di milioni di profughi, cioè l'Europa si è scompaginata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quelli che avevano visto in Europa lo sterminio degli ebrei, l'olocausto, eccetera, una parte non è andata diciamo con una per colonialia, è andata per sfuggire a quello che era successo in Europa. Quindi è stato un fenomeno socialmente e anche politicamente, citava lui Anna Arendt, ma ci sono stati Gershon Scholem, prima, ci sono state varianti del sionismo che hanno anche, non so, Ber Borokov che ha partecipato, combatteva nell'Armata Rossa, cioè ci sono state varianti del sionismo delle origini, pur basato su una logica colonialista, ma dobbiamo ricordare che il colonialismo era anche molto interno al socialismo, soprattutto alla destra socialista di inizio secolo, cioè non era un fenomeno che toccava solo il sionismo, no? La grande proletaria che si muove di Giovanni Pascoli e comunque anche nel socialismo italiano c'era questa lettura, diciamo così, meccanica dello sviluppo, no? Cioè andiamo in quei paesi dove si svilupperà, quindi porteremo il progresso in questi paesi. Quindi questo fenomeno probabilmente avvede con quello che è successo, con la nascita di qualcosa che a cui anche l'etichetta di sionismo sta stretta, perché quelli che sono in Cisgiordania sono dei suprematisti, ebrei che sostengono anche la superiorità di una razza rispetto alle altre, non solo l'espulsione dei palestinesi, ma l'espulsione perché noi siamo una razza superiore e per noi non valgono le regole che valgono per gli altri. Quindi questa cosa qua diciamo è arrivata almeno a un punto di non ritorno. Poi gli sviluppi che avrà, secondo me, è presto per dirlo, però Israele da questo, l'Israele che c'era prima non è più l'Israele che è adesso. Sì, difatti, continuando il discorso suo, mi viene da dire, il 7 ottobre come operazione militare alla fine è stata una catastrofe per Gaza, ma su scala mondiale è stata una vittoria. Perché sulla base di quello che è successo dopo, mai così basso è stato, scusatemi il termine, il livello di gradimento di Israele su tutto il pianeta, e non soltanto nei paesi terzi, l'Africa eccetera, dove già insomma, ma anche qui in Europa, anche in America, anche nella comunità ebraica. Cioè, quello che si dimentica sempre di dire, che nelle manifestazioni alle università americane, che poi sono state ricattate proprio dalla lobby israeliana che dice non mettiamo più i soldi qui e là se fate questo, tantissimi erano gli studenti di altre parti del mondo, ma tanti erano ebrei. E anche a New York, pur non credendo io nelle elezioni, nei personaggi, ma il sindaco Mamdani sembrava condannato dal fatto di essere così chiaramente antisionista, no? Eppure il 30% degli ebrei di New York ha votato per lui. 30%. Non sono cifre piccole. Parliamo di 1.300.000 ebrei a New York, di cui circa 400.000 hanno votato per Mamdani. Cioè, voglio dire, questi sono scossoni alla credibilità di un paese, di un governo, che si pagano caramente. Ancora nel mio articolo dicevo, apparentemente Israele ha vinto, ha fatto la guerra su 7 fronti, ha allargato sempre di più. Ha qualche problema adesso, eh? Perché tra Israele e la Turchia, prima c'era il Libano, c'era la Siria, adesso la Turchia è al confine di Israele attraverso il governo siriano attuale. E non è che Erdogan è antisionista perché ama i palestinesi, ma anche lui sfrutterà la causa palestinese per avere dei motivi non secondari di conflitto con Israele su altri problemi. Problema difficilmente risolvibile qual è? Erdogan fa parte della NATO, Israele può attaccare un paese NATO? Guardate che si sono aperte delle potenzialità di crisi per Israele stessa, che potrebbero riflettersi, unito poi al fatto che l'America un pochino i remi in barca deve tirarli, nonostante si continui a dire che no, guardate, abbiamo vinto, di qui, di là, di su, di giù, però poi, come avevo detto proprio una volta qui, ti ricordo, abbiamo proprio parlato del cambiamento di atteggiamento politico di Trump nei confronti dell'Europa, ma che non è solo di Trump, evidentemente è un cambiamento di atteggiamento politico dell'America nei confronti dell'Europa, ma che deve privilegiare anche altri paesi, altri fronti, in questo caso i paesi del Golfo, le petromonarchie, si sarebbe detto un tempo, che comunque hanno un sacco di soldi da mettere in America, a differenza della Cina che ritira soldi dei fondi americani, e quelli possono metterceli. Quest'ultima decisione degli europei di non congelare gli asset russi, l'abbiamo capito tutti, no? Scongelare gli asset russi, appropriarsene e spenderli, significava che sarebbe stata la corsa, la fuga disperata generale di tutti i grandi investitori di paesi in odor di inimicizia dal togliere i loro fondi. Tanto è vero che Fitch aveva immediatamente nei giorni scorsi svalutato il valore di Euroclear degli investimenti in Europa. Quindi si è aperta una crisi, è vero, Gaza ha patito, è stato, se guardiamo, lasciamo, non mi piace mai lo sguardo poi umanitario che adotta la borghesia, la Chiesa, no? Cioè, la borghesia, l'ho detto all'inizio, lo ripeto, se uno lì che prende le botte, sanguina, ha fame, va bene, se quello si ribella perché ha fame, prende le botte a sangue, diventa un terrorista, quindi non sono quelli gli sguardi, ma dal punto di vista meramente politico, mai la causa palestinese è stata così alla ribalta, ma Israele è stata così in basso. E quindi anche all'interno di Israele, dove, ci sarebbe da dire una cosa, ci sono state grandi manifestazioni finché gli ostaggi non sono tornati a casa gli ostaggi, vivi e morti, le manifestazioni davanti alle case di Netanyahu non ci sono più state, eh? E come dice Ilan Pappé nel suo libro, la cosa straordinaria degli israeliani è che la maggioranza degli israeliani che tutti i giorni vive accanto a un arabo non sa l'arabo. Quindi qualcosa ci dice che anche nella migliore delle ipotesi di un processo di avvicinamento, difficoltà ce ne sono ancora tante. Però nel frattempo si sono aperte fratture, faglie di crisi colossali, e poi come si è, a cosa daranno vita queste, diventa un po' più complicato rispondere. L'ultimo punto è una prospettiva nazionalista palestinese o una prospettiva anticapitalista e rivoluzionaria, cioè quello che vogliamo chiedere. Prima ci si muove solo per autodeterminazione e poi vedremo in futuro, oppure le due cose marciano assieme? Come diceva all'inizio, diciamo, secondo me l'autodeterminazione, che è un termine diciamo molto vago, poi se andiamo a vedere, perché cosa vuol dire autodeterminarsi per un popolo? Già il termine popolo mette insieme tutti, borghesia, proletariato, eccetera, ma Il termine autodeterminazione significa una via, dovrebbe significare una via indipendente. Io credo che con l'imperialismo che abbiamo di fronte oggi non è ha fatto un salto in avanti rispetto all'imperialismo che analizzava Lenin, nel senso che sì, ci sono sempre le condizioni che poneva il Lenin eccetera, ma oggi l'imperialismo è il modo con cui funziona il capitalismo moderno. Thompson nella sua analisi della classe operaia in Inghilterra usava una metafora, no? Diceva molte volte molti vanno a vedere analizzano la realtà cercando di vedere dov'è la classe, no? E non riescono a trovare bene i confini della classe. E lui rispondeva: la classe è il modo con cui la macchina, è come andare da un motore e dire cos'è che lo fa funzionare. Cioè la classe è il modo con cui il motore funziona. Con cui, e l'imperialismo oggi è il modo con cui funziona l'intera realtà mondiale. Non è la caratteristica di questo o quell'altro paese. Anche se si formasse un'entità statale, sarebbe comunque un'entità statale che dovrebbe sotto dei meccanismi dell'imperialismo internazionale, non dell'imperialismo solo come cioè tutta la scuola che viene dal PC, eccetera, l'imperialismo americano che è una politica, che era la politica degli Stati Uniti, eccetera, ma l'imperialismo in generale. Quindi da questo punto di vista poi la soluzione non sta in questo tipo di società. Poi c'è un altro aspetto, cioè che ci mette in causa anche noi, cioè no, la soluzione non sta neanche per chi sta nel Medio Oriente, cioè una soluzione non è possibile senza diciamo l'intervento anche della classe operaia degli altri paesi e anche della classe operaia di paesi come il nostro, sapendo una cosa, che l'oppressione nazionale, cioè non c'è la soluzione dell'oppressione nazionale nella nostra società, ma l'oppressione nazionale diventerà sempre più forte, lo vediamo anche non andando in Israele o andando da altre parti, ma lo vediamo anche da noi. Cioè oggi nei nostri paesi sta crescendo una classe operaia multietnica. Io ho fatto per tanti anni della mia vita, ho lavorato in un cantiere navale, un grosso cantiere navale, la Fincantieri di Sestri. Ebbene, quando sono entrato io lì, lavoravamo, se parlavi di immigrato, era l'immigrato dal sud, erano chi veniva dal sud, anni fa, io ho già 10 anni che sono più di 10 anni che sono in pensione, avevamo contato le nazionalità che erano dentro il cantiere, avevamo contato 52 nazionalità diverse. Oggi se andate davanti al cantiere, no, di fronte a 1000 più o meno italiani che entrano 2000 solo del Bangladesh, più tutte le altre migliaia di altri paesi. Quindi e questi qua che entrano non hanno gli stessi diritti che avevo io o che ha l'italiano. Quindi da un certo punto di vista c'è un'israelizzazione della nostra società e lo sentiamo anche nei discorsi della gente, cioè c'è uno strisciante antioperaismo che in molti casi poi sfrutta anche la divisione sociale, la divisione diciamo di origine, no? Per cui vabbè, ma tanto quelli sono perché, cioè sono tutti immigrati, hanno tutti la faccia scura, mi fanno paura, cioè questa cosa qua. Recentemente mi è capitato di avere tra le mani, non l'ho potuto leggere tutto, ma un libro che mi ha fatto pensare, perché è di un giornalista inglese, adesso il titolo non me lo ricordo, qualcuno l'ha tradotto anche in italiano, e che parlava di questo antioperaismo strisciante nella società inglese, cioè quindi nella media borghesia, anche quella di indifferentemente da chi si schiera con i conservatori e da chi si schiera con i laburisti, ma in queste classi medie, in questa piccola media borghesia, questo fastidio per la classe operaia che diventa anche che si ammanta anche del diciamo così, di caratteristiche noi e loro, no? Cioè, in Italia ci ha marciato la Lega, ci marciano le fortune elettorali, eccetera. Ma quindi di formazione, cioè noi avremo di fronte sempre di più una classe operaia di differenti origini. E quindi l'internazionalismo, a partire da questo, no? A partire dal fatto che i lavoratori che vengono da paesi arabi o da paesi musulmani, eccetera, non sono là, ma sono anche qua, diciamo, c'è un terreno di possibile di intervento. Già lui diceva, non so, nella logistica, per esempio, sono più gli immigrati che non gli italiani, ma anche nella cantieristica sono più gli immigrati che non gli italiani. Quindi c'è l'internazionalismo, che è comunque l'unica soluzione possibile, soprattutto in un momento come questo con le guerre, no? Cioè il fatto di dichiararsi contro le guerre tra gli imperialismi, dichiarare che il nemico è in casa nostra, che non stiamo con la borghesia di nessun paese, tantomeno con la nostra, eccetera, ma anche dell'unione dei lavoratori, secondo me oggi ha dei motivi in più ed è anche molto più presente anche nelle nostre società. Quindi non solo in Medio Oriente c'è il problema dei proletari israeliani e dei proletari palestinesi, con tutte le differenze anche, diciamo, interne alla classe, come c'è anche in altri, cioè anche nei nostri paesi ci sono proletari che hanno più garanzie, proletari che ne hanno di meno, proletari che guadagnano di più, che hanno, diciamo, dei livelli salariali più alti, e altri che non hanno neanche un salario garantito. Ma non solo, dico, in paesi come nel Medio Oriente, eccetera, ma anche da noi questa situazione sarà sempre più forte, sarà sempre più presente, e che, diciamo, è a cui l'unica risposta è una politica internazionalista a tutto campo. Io non credo, diciamo, agli internazionalisti della domenica che dicono, vabbè, siamo astrattamente per l'unità dei lavoratori, ma poi alla fine distinguono quello aggredito, l'aggressore, per esempio, rispetto alla guerra che c'è in atto in Ucraina. È vero, la Russia, ma muoiono soldati russi, muoiono soldati ucraini, e oggi anche in quel caso lì, secondo me, bisogna essere chiaramente contro la guerra per l'unità del proletariato di tutti e due i paesi. Certo. Ecco, sì, io direi una cosa, no? In presenza di un'azione grossa, internazionale, di un proletariato che sarà in gran parte non bianco, può darsi che in Israele, in Palestina, ci sia un processo che non passi attraverso la forma Stato nazionale israelo-palestinese, in base alle cose che dicevo prima. Se non c'è questa altra cosa, mi sembra abbastanza inevitabile che la soluzione locale, che prima o poi dovrà esserci, magari porterà con sé sconvolgimenti, come ho detto prima, rispetto ai paesi vicini, eccetera, per forza dovrà essere in qualche modo a quello, a meno che la situazione attuale, che come dicevo prima è assolutamente frastagliata, di rotta, di crisi generale, che economica, militare, di conflitto tra all'interno dello stesso Occidente, col fatto nuovo che noi abbiamo un conflitto che è sempre potenzialmente esistito. L'amore degli americani per l'Europa non è mai esistito, sono sempre inventato gli europei, però oggi è reso evidente, e gli stessi europei sentiamo fare dei discorsi ai giornali come la Repubblica, sembra di leggere il vecchio quotidiano marxista-leninista, non sull'imperialismo americano. Alcune volte c'è da ridere, no? Rispetto all'imperialismo americano, ma l'ho scoprita adesso, cioè, voglio dire, siete dei fessi. La campagna contro Lucio Caracciolo, Lucio Caracciolo improvvisamente è diventato un filo putiniano e contro di lui si levano voci di ogni genere. Una persona appena decente che sull'IMES ha cercato di fare delle analisi obiettive della situazione geopolitica è diventato un nemico di... Non credo che non lo vedremo più né da Lilli Gruber né sulle pagine della Stampa né di Repubblica. Cioè, evidentemente c'è una crisi in corso che chiede alle borghesie di schierarsi e queste... al loro interno chiedono ai loro appartenenti e soprattutto ai loro governati di schierarsi, no? E questo crea scompiglio. Sicuramente tra i proletari palestinesi e i nuovi proletari che animano la logistica, i cantieri e le fabbriche d'Europa ci sarà più attinenza di quanto potesse essercene tra l'operaio americano durante la guerra in Vietnam e il Vietcong. Ricordiamoci che la guerra in Vietnam ha visto grandissime manifestazioni in America, è finita quella guerra anche grazie alle rivolte dei soldati americani e tutto quanto, ma si mobilitavano gli studenti, gli afroamericani, i portoricani, i reduci di guerra, ma gli operai bianchi non hanno mosso un dito, Quindi voglio dire, ci sono sempre queste cose che funzionano, vanno avanti, così come adesso, prima citavo il centro sociale a Scatasuna, lavora con i Maranza, è un grande lavoro di avvicinamento, invece i Maranza sono quelli che certo, me mi hanno anche derubato un anno e mezzo fa la stazione di Lambrate, e sono quelli che, su cui Salvini e gli altri vogliono imporre, no? Dice, ah, questi sono i delinquenti, eccetera. Eppure il lavoro tra queste fasce giovanili emarginate, che sono le stesse delle banlieue parigine, delle periferie londinesi, eccetera, è altrettanto importante per promuovere forme di solidarietà internazionale, internazionaliste. Cioè, io mi riferirei sempre agli eventi poi materiali concreti, no? Attraverso cui queste cose avvengono e finiscono con l'avere un peso reale, Quindi so che nelle manifestazioni per la Palestina molti lavoratori non italiani ma immigrati hanno partecipato, no? In tutte le città, anche facendosi riconoscere. Ho visto anche la manifestazione a Brescia, che c'era stata 8.000 persone a Brescia, è un numero assolutamente pazzesco. Ecco, queste sono cose molto importanti che questo stato di crisi, questa situazione ci ha portato, e ripeto, la questione dello Stato nazionale o meno, anch'io sono assolutamente contrario al nazionalismo, eccetera, però nel frattempo, se non avvengono stravolgimenti più ampi legati alla guerra, eccetera, può anche darsi che invece dopodomani in Israele ci troviamo un rivolgimento che porta a formazione di uno Stato, la butto lì, no? Ma federativo tra palestinesi, israeliani, eccetera, che hanno deciso di farla finita col massacro reciproco. Però la sfera di cristallo non l'abbiamo, ecco, sarebbe anche sciocco cercare di averla. Allora, ringrazio i due oratori e apriamo interventi, domande. Chi è collegato online, me lo scrive sulla chat e gli diamo la parola. Chi è in sala deve intervenire qui al microfono, perché poi è tutto registrato e vengono sentiti i podcast in seguito. Io ho già un intervento, se vieni qua, poi se qualcun altro si vuole prenotare. Allora, abbiamo assistito a interventi veramente interessanti che hanno cercato di squarciare i veli, e dovremmo, secondo me, andare ancora più avanti su questa strada. Il problema con la questione israelo-palestinese è che tutti noi, anche non solo i vecchietti, ma anche i più giovani, vedono la situazione di adesso, con la testa rivolta al 1968, cosa noiosissima quando si rievoca il 68 da reduci e cosa letale quando si parla di Israele e Palestina, perché la situazione israeliana, palestinese e medio orientale è la situazione che più si è mossa in questi 60 anni. Noi abbiamo avuto nel 67-68 Israele aveva meno di 2 milioni di abitanti, meno di 2 milioni di abitanti e i palestinesi erano più o meno 1,5 milioni, 2 milioni. Oggi abbiamo in Israele 10 milioni di abitanti, non solo ebrei, poi voglio dire questo, su questo, e 7,5 milioni di palestinesi tra Gaza, Cisgiordania e campi profughi. Non so poi se in altri paesi ci siano altri non censiti. Poi abbiamo una situazione intorno a questi paesi colossale. L'Egitto fa 105 milioni di abitanti, di cui un proletariato notevolissimo. La Turchia ne fa 90 milioni, quasi 80 milioni e passa. E l'Iran, i tre giganti del Medio Oriente. Più l'Arabia Saudita, che ne ha 46 milioni. Ma al di là di questi dati demografici, quello che più ci interessa è che poi è il sottostante del dibattito che stiamo facendo, è il proletariato del Medio Oriente. È un proletariato numeroso, perfino a Gaza. Allora, per darvi un esempio, avete visto le foto di Gaza prima della distruzione? Una distesa di cemento mai vista. Cioè, voi vedete in 340 chilometri quadrati 2,5 milioni di persone ammassate, non in campi profughi, c'erano alcuni sì, ma case, grattacieli che Israele naturalmente ha pensato di distruggere in modo scientifico. Beh, chi ha costruito quei grattacieli? Gli operai palestinesi di Gaza. Cioè, in un paese poverissimo che vive di importazione di capitali dal Qatar, di investimenti arrivati in modo strano da paesi arabi, consentiti tutti da Israele, chi ha costruito quell'enorme quantità di città, di cemento? Un numero notevole di operai che non sono, che si sono uniti come numero a quelli che, dicevano i compagni, andavano a lavorare in Israele e che anche durante questa guerra sono andati a lavorare in Israele, perché su Haaretz, il giornale israeliano, c'era delle foto atroci di lavoratori agricoli palestinesi che vivono come bestie, esattamente come nei nostri campi della Puglia e della Calabria, e lavorano nei campi di Israele. Poi Israele è diventato un gigante della tecnologia e lì abbiamo una classe operaia elevata, ma anche lì chi ha costruito tutto l'enorme sviluppo urbano di Israele e nelle stesse colonie? Degli operai, soprattutto operai palestinesi, perché costano poco e possono essere schiavizzati, più operai israeliani. E per operai israeliani indico sia gli operai cosiddetti ebrei, sia gli operai cosiddetti arabi, perché è venuto il momento, e questo mi rivolgo in particolare ai compagni che sono intervenuti perché hanno fatto degli interventi precisi, di parlare non di proletariato ebraico o proletariato arabo, ma di parlare di proletariato israeliano, perché Israele non è un paese ebraico, lo dicono i sionisti per la loro politica suprematista. Israele è un paese capitalistico e imperialistico che ha una classe operaia multietnica e che di fatti, come hanno detto i compagni, ha un proletariato di origine locale, virgolette, ebraica, che ha interesse anche all'oppressione dell'altra parte della classe. Interesse nel senso che ci guadagna, perché ha case a basso prezzo, perché può andare nelle colonie, perché può avere dei servizi che gli altri non hanno e per cui lui li paga poco, d'accordo. Ma poi i 300.000, 400.000 o forse 500.000 immigrati asiatici e africani in un paese di 10 milioni, significa che lì c'è una classe operaia. Per classe operaia non intendo la classe operaia di Pietro Aquilino del Fincantieri, intendo il proletariato di oggi, che dobbiamo analizzare secondo la sua condizione di vita odierna, che è una classe importantissima. Naturalmente è una classe economica, è il motore, però non è un protagonista politico. Ma dobbiamo partire da questa situazione profondamente cambiata. Se poi estendiamo il nostro sguardo all'Egitto, alla Turchia, all'Iran, dove in Iran il movimento antiteocratico è soprattutto operaio popolare. Bene, se lo estendiamo addirittura all'Arabia Saudita, allora vediamo la situazione del Medio Oriente senza più gli occhi del nazionalismo. Perché? Ritorniamo a Gaza. Chi ha costruito quelle case? I proletari. Se erano proletari, avevano un salario. Se c'era il loro salario, c'era il profitto. E di chi era quel profitto? Dei costruttori di case, della borghesia palestinese. Perché parliamoci chiaro, lì c'è una borghesia. Non è la borghesia di Wall Street, è una borghesia che però ha un alto profitto rispetto ai suoi operai. E chi è la rappresentante politica di quella borghesia? Chi ha costruito i tunnel del contrabbando? Chi ha sfruttato i tunnel del contrabbando? È inutile che dici così, perché il tuo nazionalismo, scusa, no, è fuori luogo. Quella borghesia era pronta ad ammazzare i suoi proletari, come ha fatto l'OLP di Arafat. Anche Hamas è rappresentante della borghesia palestinese. E quindi noi dobbiamo vedere le cose da un punto di vista di classe, senza nostalgia per il passato, ma sapendo che abbiamo una potenza sociale che può esplodere. Poi ci sono le contraddizioni borghesi, che sono enormi. Mai abbiamo potuto pensare, qui non penso tranne una persona che magari si rifà al compagno Mao, no vabbè, lo sai che noi discutiamo sempre, però possiamo usare una espressione ripresa da Mao: grande il disordine nel Medio Oriente, la situazione è quindi eccellente. Non perché bisogna essere ottimisti a tutti i costi, ma perché le contraddizioni, come diceva Sandro, sono così grandi che di fronte alla situazione sociale incontrollabile, queste contraddizioni possono essere esplosive. Cosa manca in questa situazione? Mancano dei movimenti politici comunisti. Almeno noi ne abbiamo poca conoscenza e non abbiamo una conoscenza diretta. Però in Egitto c'è una tradizione politica che è rimasta e che sopravvive e ha dato vita alle rivolte del 2010-2011. Hanno abbattuto Mubarak, mica poco. In Turchia abbiamo la lotta coraggiosa di tanti compagni e gruppi politici di vario orientamento, che però sono irriducibili. In Iran abbiamo una situazione di sviluppo. In Israele si pongono tutti i problemi della sopravvivenza dello Stato in futuro, ma bisognerebbe aprire, è troppo lungo. E in Palestina abbiamo avuto un movimento politicamente avanzato negli anni scorsi, ma questi compagni sono stati anche ammazzati, sono stati anche fatti fuori o sono passati con gli islamisti alcuni. però abbiamo una tradizione, dobbiamo rifarci a loro e dobbiamo avere fiducia che il proletariato, che prima non esisteva con questa potenza nell'area, possa fare dei passi avanti. Noi siamo vicini a loro non solo per solidarietà, ma se ci sarà la guerra che si avvicina, quale sarà lo schieramento dell'Italia nel Mediterraneo? Lo schieramento dell'Italia nel Mediterraneo sarà nel Mediterraneo orientale, la flotta sarà lì a difesa del gas che l'ENI è la prima a sfruttare, a difesa dei profitti che fa in Egitto, in Libia e fa con Israele. Quindi abbiamo un collegamento anche diretto che ci interessa. Non confondiamo però, e finisco, la questione israeliana con la questione ebraica cosiddetta e con l'antisemitismo. Su questo dovremmo fare una lunga, dovremmo dedicare, ma non è il caso perché non è un fatto di importantissimo per lo sviluppo politico della situazione mondiale o interna o anche del Medio Oriente. Non diamo ai nostri nemici di classe il pretesto di confondere Israele con l'ebraismo. Affrontiamo anche le questioni che si pongono, sono questioni relative nelle comunità ebraiche di oggi, proprio da questo punto di vista. Volete salvarvi dall'antisemitismo, dalla reazione? Collegatevi, come fu fatto in passato da tanti compagni, da tantissimi compagni, al movimento rivoluzionario comunista. Non c'è altra via. Il nazionalismo vi ha ammazzati nei campi di concentramento e ha fatto di voi dei boia del campo di concentramento, perché state dando ragione a Israele, state sostenendo Israele pensando che di salvarvi qui in Europa o negli Stati Uniti. Sono illusioni che saranno pagate carissime, ma non posso intrattenermi su questo. Ciao a tutti, sono un compagno della Lega Trotskista d'Italia, del giornale Spartaco. Intanto volevo iniziare iniettando, credo, un elemento di razionalità nel dibattito, e perché dire che la situazione è eccellente per la Palestina e il sionismo sta finendo mi sembra, a dir poco, molto lontano dalla realtà. La causa palestinese ha subito sconfitte devastanti negli ultimi anni, Gaza è stata rasa al suolo, vuol dire che chiunque la governerà nei prossimi anni dovrà ricostruire delle macerie e una condizione di vita impossibile. Israele, ovviamente come avamposto dell'imperialismo americano in Medio Oriente, ha ottenuto tutto quello che voleva, lo Stato siriano è stato rovesciato, l'Iran è stato contenuto, non è stata risolta nessuna questione, ma la potenza di Israele e degli Stati Uniti e dei suoi alleati nella regione si sono rafforzati enormemente. 3 anni di un movimento di massa a scala internazionale non hanno ottenuto niente in termini di fermare il genocidio, quindi bisogna partire dal porsi qual è il ruolo dei comunisti in questo momento. E la premessa per dare una risposta che ci porti in avanti alle domande che sono state poste e che è molto semplice: la causa palestinese è una causa giusta, una causa progressista, una causa democratica che va appoggiata e nell'interesse di tutti gli operai del mondo. Costruire un fronte unico di massa con le masse arabe in Medio Oriente contro l'imperialismo americano e contro i suoi agenti sionisti e i suoi alleati in Europa. Questo è fondamentale. La liberazione della Palestina richiede che lo Stato sionista, che è stato creato come colonia di stanziamento rubando la terra ai palestinesi, venga distrutto con una rivoluzione che abbia una componente progressista anche per le masse ebree che vivono in Israele e che hanno il diritto di continuare a vivere in una Palestina libera dal fiume fino al mare con pieni diritti democratici. Questa è l'unica base su cui è possibile unire la classe operaia israeliana o gli oppositori in Israele al movimento di massa nei paesi arabi. Nessun'altra base è possibile che non sia la lotta contro lo Stato sionista e per la liberazione della Palestina, perché il nazionalismo non può sparire soltanto con la predicazione umanitaria di ideali marxisti astratti. Richiede di riconoscere che la lotta per la Palestina è una forza motrice della lotta contro l'imperialismo e della rivoluzione in Medio Oriente e nel mondo, a una condizione che sia guidata da comunisti con un programma operaio rivoluzionario. Questa condizione non si è mai realizzata in un secolo. I marxisti in Medio Oriente e in Palestina, di qualsiasi ortodossia, non hanno mai avuto nessun ruolo nel guidare il movimento di liberazione della Palestina in una direzione positiva. Non parlo degli stalinisti che, come sapete, sono stati responsabili di riconoscere la Nakba, non parlo nemmeno della Quarta Internazionale, di cui io sono un elemento, ma che storicamente ha avuto una posizione di neutralità nel 1948 e anche alcuni elementi nel 1967 tra Israele e gli Stati Arabi, ma ci sono molte correnti in Italia e all'estero che pensano che la lotta per la liberazione della Palestina, per quanto si oppongano ai bombardamenti a Gaza, è una causa reazionaria, un relitto del passato, un ostacolo all'unità di classe. Tutte queste cose servono non a far avanzare l'internazionalismo e l'unità tra operai ebrei e masse palestinesi, ma a impedirlo. Okay. Detto questo, penso che i compiti che abbiamo di fronte come marxisti in questo momento, a partire dalla nostra situazione, è quello di saldare le lotte della classe operaia occidentale al movimento di liberazione per la Palestina. C'è stato un'opportunità in questo senso negli ultimi mesi che non si è realizzata, perché il movimento per la Palestina continua a essere nelle mani di liberali che lo presentano come una lotta per toccare il cuore degli imperialisti, delle Nazioni Unite, della Corte dell'Aia, in modo che scarichino il loro agente sionista, cosa che non è successa e non succederà mai, ma che rende impossibile mobilitare le masse operaie, perché bisogna perdere il posto di lavoro, rischiare di essere emarginati quando la soluzione è nelle mani di altri. Oppure sono stati spesso usati argomenti moralisti per cercare di mobilitare gli operai dicendogli, l'hanno fatto ad esempio i giovani palestinesi, se non scioperate per la Palestina siete complici col genocidio. Argomenti di questo tipo, specialmente in una situazione in cui la classe operaia non guarda alla sinistra ma principalmente alla destra come soluzione ai suoi mali dopo 30 anni di liberalismo che li ha distrutti, non fanno altro che spingere la classe operaia verso la passività. Bisogna contrastare il liberalismo che guida il movimento per la Palestina. In Palestina bisogna schierarsi decisamente dalla parte della resistenza sul piano militare, sostenerla per quanto possibile, ma combattere nella direzione politica che non è in grado di liberare la Palestina. Il crimine di Hamas non è quello di essersi opposto a Israele, ma di averlo fatto con metodi, ad esempio il 7 ottobre, che hanno compattato la popolazione israeliana intorno al sionismo, un metodo controproducente. Al di là degli aspetti umanitari della cosa, adesso non posso entrare in tutti i dettagli, ma in Israele, in Palestina, bisogna adesso contrastare il sentimento disfattista tra le masse di Gaza, un sentimento comprensibile dopo 3 anni di sofferenze, e impedire il disarmo della resistenza, opporsi ai patti di Trump e dei suoi amici, approvati anche dalla sinistra liberale in Europa. Questo è un compito cruciale. In Israele bisogna sfruttare qualsiasi frattura all'interno della società per convincere le masse ebree che è loro interesse liberare la Palestina, che è loro interesse anche economico. Ad esempio i Mizraim, una delle parti più oppresse della popolazione ebrea, che peraltro sono quelli più reazionari sul piano ideologico perché vogliono dimostrare di essere veri ebrei e cercare di essere integrati nella società, sono pure quelli che hanno meno interesse nel mantenimento dell'apparato sionista. Bisogna mostrare alla classe operaia ebrea che continuare a essere una pedina degli imperialisti in Medio Oriente non è a suo vantaggio, li rende esposti a massacri, oltre che a farne i carnefici dei loro fratelli di classe palestinesi. Penso che i compiti che abbiamo davanti sono molto urgenti, ma richiedono veramente di partire dal riconoscere che la Palestina deve essere liberata e che questa liberazione avverrà solo se alla sua testa ci sono comunisti con un programma internazionalista, e non descrivere la causa palestinese come un problema o un ostacolo all'unità di classe. Ma io devo dire la verità, se avessi queste certezze non sarei nemmeno qui a discutere con voi. perché la discussione per me significa porre dei problemi da affrontare insieme. Un problema che pongo molto seriamente, compagno l'ha appena detto, da 100 anni i marxisti non hanno nessuna influenza in Medio Oriente. Sarà solo per azione di forze contrastanti, potenti, o sarà perché magari i marxisti si sono presentati col Bund a fare, per esempio, i primi kibbutz, che nascevano da un punto di vista molto interessante, la socializzazione del lavoro, delle terre, del loro prodotto, ma partivano dal presupposto che quelle terre fossero da nessuno, perché di nessuno, esattamente come le terre degli indiani d'America, perché non lavorate secondo le leggi della moderna economia. E questi erano i socialisti del Bund, che avevano sicuramente una posizione molto più radicale rispetto a tante questioni di quanto ne abbia la sinistra istituzionale di oggi. Il Maki, il Partito Comunista Ebraico, o di Israele, scusate, ha spinto per l'unione tra operai ebrei ed arabi alla fine degli anni 50. Perché fino al 56-57 Stati Uniti e Russia vanno d'amore d'accordo nel demolire la potenza inglese e quella francese, ma per quanto riguarda il Medio Oriente, nel demolire la potenza inglese, tanto è vero che cosa succede nel 56? Che quando nel 56 con la nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser intervengono i paracadutisti francesi, i paracadutisti inglesi, i paracadutisti israeliani per riprendere, l'ordine arriva dall'alto, da Mosca e da New York, fuori dai coglioni. E non permettetevi più di agire, perché all'epoca anche gli Stati Uniti puntavano su Nasser. Il Maki, una volta che si crea una frattura maggiore poi tra Russia e Stati Uniti a proposito di chi deve governare o meno il Medio Oriente, per un brevissimo periodo sarà per l'unione tra operai israeliani, ebrei e arabi. Partito che avrà sempre delle percentuali molto basse all'interno della società israeliana. Successivamente abbiamo forme di socialismo arabo che va dal Nasser dell'Egitto alla Siria e arriva fino a alcuni gruppi della resistenza palestinese, completamente appoggiato dall'Unione Sovietica all'interno della logica della guerra fredda. Se ci facciamo caso, finisce l'Unione Sovietica e tutto questo apparato ideologico più o meno di sinistra che si dichiarava socialista scompare dalla faccia del mondo, di quell'aspetto, di quel territorio, dalla Palestina e dal Medio Oriente. Quindi dire 100 anni che non c'è, ma perché non c'è? Perché io mi sono stufato di dire che non vinciamo perché ci sono gli stalinisti cattivi che ci hanno sabotati o perché la repressione ci ha schiacciato. Io ho scritto 1000 volte, la classe operaia italiana non è stata schiacciata dalla repressione, è stata schiacciata dai mutui. E dopo ho anche cominciato a guardare a destra. Ma ci sono fatti concreti con cui bisogna fare i conti, non con le parole d'ordine, che è bellissimo. La classe operaia, no? Proletari di tutto il mondo unitevi, fantastico, bellissimo. Dopodiché i proletari sono colorati di diverse, cioè, noi continuiamo a essere internazionalisti, ma all'interno di un mondo che ha delle diversità di cui dobbiamo tener conto. Se appoggiamo la causa della lotta armata palestinese di Hamas, per esempio, grande bestemmia che sto per dire, non possiamo appoggiare la lotta armata di Hamas e non appoggiare la dirigenza di Hamas, perché è quella che tiene in piedi quella lotta armata, è quella che ha ricevuto le armi, è quella che ha avuto i contatti militari per poter fare l'azione militare. Non l'ha fatto qualcun altro, non è una cosa spontanea delle masse palestinesi. Non diciamo coglionate se non vogliamo tradire la causa dell'internazionalismo proletario e delle masse palestinesi. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, dire qualcosa, anche di chi è presente online, chiudo con 2 parole proprio. Io penso che la discussione di oggi sia stata veramente interessante, non è certo risolutiva di tutte le problematiche. Sono stati posti molti problemi per andare a determinare gli elementi di una posizione, di una valutazione. Chiudo dicendo solo 2 cose brevissime. uno, penso anche rispetto a quanto molto circola, che la definizione di posizioni politiche, di valutazione, non compete a ciascuno nel suo proprio paese e deve, dagli altri paesi non si dice niente. È un compito collettivo definire che cosa avviene in Palestina, definire che cosa avviene in Turchia, in Italia, negli Stati Uniti. È un compito di tutti quelli che a livello internazionale cercano di muoversi e di coordinarsi. C'è un primato dell'internazionale sul nazionale. Certo, ci sono le articolazioni, ma è un progetto, un percorso, una cosa comune, internazionalista. Aumenteranno le contraddizioni? Sicuramente sì. E chiudo qua. Mi è arrivata la mail da Haaretz, il quotidiano israeliano. C'è il governo Netanyahu che vuole andare negli Stati Uniti a convincere Trump ad attaccare un'altra volta l'Iran. Quindi vediamo che l'aumento delle contraddizioni e delle problematiche si ripone su scala più allargata. Ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio chi è intervenuto e chi ha parlato qua. Buonasera a tutti.